Salve a tutti, io sono Jasmine e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlerò dei classici Disney. Oggi vi parlo nello specifico della Carica dei 101, che è il 17° classico Disney ed è stato prodotto nel 1961. Il film è ispirato all'omonimo romanzo di Dodie Smith, scritto nel 1956, ed ha come protagonisti dei Dalmata e i loro padroni. Il compositore, Roddy Radcliffe, vive a Londra col suo dalmata Pongo e si sposa con Anita, che anch'essa ha un dalmata di nome Peggy. Le due coppie si sposano e Peggy e Pongo danno alla luce 15 cuccioli. Però in questo scenario appare un'altra figura, che è la figura di Crudelia De Mon, che è una ricchissima e perfida donna, amante del lusso e che vorrebbe rapire i cuccioli dalmata per fare delle pellicce. Benché la storia abbia un lieto fine, la trama è abbastanza cruenta, ma ciò non ha intaccato il successo del film, che anzi ha avuto un discreto incasso. Inoltre fu uno dei primi film dove l'antagonista, Crudelia De Mon, grazie al suo carisma, ha conquistato la popolarità del pubblico ed è diventata anche un personaggio iconico. A livello di realizzazione, con la Carica dei 101, introdussero la tecnica della xerografica, ovvero il sistema alla base delle fotocopie, e quindi ha permesso una realizzazione più veloce dell'animazione. Il design del film è stato curato da animatori, tra cui il famoso Milt Cole, ed era molto simile a quello della Bella Addormentata nel Bosco, che sono stati fatti molto vicini nel tempo. Però questo design non piacque molto a Walt Disney, inizialmente, poiché pensava che si stava perdendo quella caratteristica cartunesca dei primi film, soprattutto quelli degli anni 40. Grazie a tutti per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.